Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Simona, come va? Benissimo, buonasera a tutte e tutti, siamo pronti per partire e per portarvi lontano anche. E andare a capire come può un archeologo fare grandi scoperte circondato dai cannoni dell'ISIS, sembra impossibile. Capricciosa. Stravagante. Irriverente. Ciarliera. Cosa c'entra tutto questo con la malattia mentale? Ve lo raccontiamo fra poco, sembra impossibile ma c'entra. E infine? Sembra impossibile ma anche la creatività si può imparare. Via allora, incominciamo. Sembra impossibile, Simona, fare archeologia con bombe intorno. Invece Federico, si può, e anche con ottimi risultati, perché è stato scoperto un lago di 20.000 anni fa, quasi 1.000 siti archeologici e altro ancora, quindi un prezioso tesoro archeologico scoperto appunto dagli archeologi dell'Università di Udine, e noi ne parliamo con Daniele Morandi Bonacossi, che è il direttore di questa missione archeologica italiana in Assiria, professore di archeologia del vicino Oriente antico e a capo quindi di una squadra di archeologi, geologi, paleobotanici, antropologi, restauratori. Buonasera professore. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Benvenuto. Ci faccia capire meglio dove state lavorando e dove avete lavorato a partire dal 2012. Sì, certo, noi lavoriamo nel nord dell'Iraq, in quella regione che è una regione autonoma dell'Iraq confederato e che prende il nome appunto di regione del Kurdistan iracheno, e siamo nella parte nord-occidentale del Kurdistan iracheno, qualche decina di chilometri a nord di Mosul e molto vicini al confine con la Turchia, fra l'Iraq e la Turchia. Sono tutti nomi questi qui che noi sentiamo nei telegiornali a proposito di battaglie. Sì, perché dal 2014 Mosul, come tutti gli ascoltatori sanno, è diventata la capitale, diciamo, irachena del sedicente califfato islamico, e quindi la nostra missione archeologica si trova ad operare in un teatro diciamo scientifico e geopolitico molto non caldo, banale. E non semplice. Ecco, ma l'ISIS, a proposito, è stata quindi una presenza minacciosa anche durante le vostre campagne di scavo? Sì, sempre, in particolare nel 2014, perché dopo la conquista di Mosul, che è avvenuta nel giugno del 2014, all'inizio del mese di agosto, quando la nostra missione si trovava proprio in Kurdistan, nella città di Duhok, dove abbiamo la nostra base logistica, l'ISIS nei primi giorni dell'agosto del 2014 ha tentato di, diciamo, sfondare le linee difensive del Peshmerga curdi per invadere il Kurdistan iracheno, tant'è che la nostra missione allora fu evacuata dal Ministero degli Affari Esteri, e da allora si lavora in questo territorio del Kurdistan iracheno del nord, sempre però molto vicini al fronte con l'ISIS, che si trova solo 10 chilometri più a sud della zona meridionale della nostra area di studio. Però avete la fortuna che l'ISIS ama molto i siti archeologici, no? Sì, certo, li ama talmente tanto da distruggere. Ecco, Morandi Bonacossi, però appunto, è la domanda che noi abbiamo lanciato in apertura della puntata di questa sera. Come si lavora? Come una squadra di archeologi riesce a lavorare in sicurezza così vicino da un fronte caldo? Ma questo è possibile perché, per fortuna, il Kurdistan iracheno è una regione non solo stabile politicamente, ma anche sicura dal punto di vista militare. Noi siamo una missione non solo dell'Università di Udine, ma siamo anche una missione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, e quindi operiamo sempre in stretto contatto sia con l'unità di crisi della Farnesina, sia soprattutto con l'ambasciata italiana a Baghdad e il consolato iracheno Erbil, e quindi possono monitorare sempre la nostra presenza in loco, le nostre attività, e quindi insomma lavoriamo in una situazione di assoluta sicurezza. Insomma, avete lavorato nelle terre dell'antico impero assiro. Ci racconti un po' meglio che cosa avete scoperto, perché era una regione poco studiata, poco esplorata, proprio a causa dell'instabilità politica e militare. Ecco, la regione nella quale noi operiamo costituiva anticamente il cuore dell'antico impero assiro, la cui capitale si trovava a Ninive, Ninive che oggi si trova nei quartieri orientali di Mosul e quindi ancora un'area occupata dall'ISIS. Quindi la regione nella quale noi operiamo è sempre stata centrale dal punto di vista scientifico, perché era di fatto la campagna, il territorio circostante questa grande capitale di un impero che nell'VIII secolo avanti Cristo si estendeva dal Golfo Persico fino alla Palestina. Pensate che nella regione erano noti prima dell'inizio del nostro progetto una dozzina di siti archeologici che peraltro non erano mai stati indagati in maniera sistematica e con metodologie moderne, e adesso noi abbiamo già individuato quasi 1000 siti archeologici prima erano interamente sconosciuti, quindi c'è proprio un paesaggio culturale archeologico che si è improvvisamente riempito. Una storia completamente nuova che ci sta arrivando. Avete però trovato anche tracce di un antico lago? Sì, certo, abbiamo trovato, fatto questa scoperta piuttosto eccezionale nell'estate scorsa, di questo antico lago che noi stavamo cercando da anni, a dire il vero, e vi spiego anche perché un lago rappresenta quello che noi archeologi chiamiamo un archivio paleoclimatico di primaria importanza, perché nei sedimenti che costituiscono il fondo degli antichi bacini lacustri si conservano soprattutto i pollini della vegetazione antica, il cui studio ci consente di ricostruire la copertura di vegetazione che c'era nella regione nei diversi periodi della sua storia e quindi di ricostruire l'ambiente naturale e il clima e la loro evoluzione, come l'ambiente è cambiato come conseguenza di oscillazioni del clima che ci sono sempre state e come è cambiato soprattutto come conseguenza delle attività produttive dell'uomo. Morandi Bonacossi, prima di salutarla però le facciamo l'ultima domanda. La campagna continua, c'è l'intenzione anche di realizzare proprio un parco archeologico ambientale? Certo, noi stiamo lavorando dal 2012 alla realizzazione di un grande parco archeologico perché vogliamo musealizzare, in vista di un futuro migliore per l'Iraq, il grande sistema di canali, acquedotti, dighe, chiuse che gli Assiri costruirono a cavallo fra VIII e VII secolo nell'entroterra di Ninive per portare l'acqua alla capitale. Quindi antecedenti agli acquedotti romani? Quindi antecedenti agli acquedotti romani, sì, di più di 3 secoli, noi nella nostra visione eurocentrica della storia del mondo si pensa sempre che il primato sia legato alle culture classiche dell'Europa, ma invece in questo caso nell'ingegneria idraulica gli Assiri erano assolutamente di brillante competenza. Buon lavoro, state attenti. Certo, grazie mille. Grazie. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Adesso vi dicono, voi che state guidando, come vanno le cose sulle strade, il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dopo Teramo, Roma e Bolzano farà tappa a Chieti dal 2 febbraio al 21 e poi ad Ascoli Piceno dall'8 al 27 marzo. Federico, mi riferisco alla mostra che si intitola I fiori del male e che racconta la storia di donne in manicomio nel regime fascista, una mostra fotodocumentata curata da Anna Carla Valeriano e Costantino Di Sante. E da questa mostra noi abbiamo estratto un documento che è una pagina di un testo per, come dire, attività terapeutiche. Un testo estremamente significativo perché ci fa capire bene in che contesto ci si muoveva all'epoca, a proposito della sintomatologia. E quello che dicevamo nei titoli, se vi ricordate, capricciosa, stravagante, ciarliera, sono definizioni di, a partire dal significato e dall'obiettivo di questa mostra, erano definizioni di alterazioni mentali e quindi di pazzia, come soprattutto allora si diceva. Per parlare di questa cosa, che è abbastanza paradossale, abbiamo qui questa sera con noi Franco Del Corno. Buonasera Del Corno. Buonasera. Buonasera. psicologo clinico, e anche per il tema che stiamo attraversando è importante dire che lei è anche il curatore della collana di Raffaello Cortina Editori, Psicologia Clinica e Psicoterapia. Allora, Del Coro, noi siamo, come si dice, basiti in modo molto colto ma paurosamente stupefatti che ci fossero queste definizioni ciarliera per una malattia mentale. Va bene che le cose sono molto cambiate negli ultimi decenni, quindi stiamo parlando di 80 anni fa, però non era paradossale scrivere quelle cose? Ma era sicuramente paradossale, e dobbiamo dire che sicuramente le donne pativano da questo punto di vista l'espressione di un numero maggiore di pregiudizi, di giudizi negativi, perché la cultura dell'epoca penalizzava, come purtroppo continua a penalizzare anche ai giorni nostri, anche se fortunatamente in una misura un po' minore, il ruolo femminile, la figura femminile. Riguardo però all'utilizzo di queste etichette che cercavano in qualche modo di spiegare la natura o le caratteristiche della malattia mentale, dobbiamo dire che questo tipo di aggettivi veniva usato per le donne, ma veniva sicuramente usato anche per gli uomini. Mm. E purtroppo non ci si limitava agli aggettivi. Ma quello che a noi sorprende è, a una ciarliera che tipo di terapia si imponeva? Allora, guardi, non c'era, e purtroppo non c'è stata per lungo tempo, una sorta di corrispondenza razionale tra l'etichetta diagnostica moralistica, estetica o di qualunque altro tipo, ma certamente non clinica, e le terapie che poi venivano applicate. Anche perché le terapie, fino ad anni relativamente recenti, erano estremamente varie, ma soprattutto caratterizzate dalla bizzarria e spesso purtroppo dalla crudeltà. E proprio gli anni del fascismo, Del Corno, se non sbaglio, ci sono state grosse sperimentazioni, cioè in manicomio si usava la malarioterapia, l'insulinoterapia, e si è cominciato poi a utilizzare l'elettroshock. Certamente, guardi, posso citare un autore americano che è uno psichiatra che si chiamava Otto Will, che alla metà degli anni Ottanta compilò un elenco di tutte le terapie che aveva visto usare nei confronti della schizofrenia durante la sua carriera di psichiatra. E ci sono dentro esattamente le cose che diceva lei, ma ci sono dentro cose ancora più bizzarre e ancora più crudeli. Ad esempio, impianto di elementi di metallo nel cervello per poter dirigere degli impulsi elettrici generati dall'esterno. Oh, santo cielo. L'induzione di un sonno prolungato nella speranza che la condizione di dormiente in qualche modo risolvesse la sintomatologia patologica. Ne dico una delle più bizzarre e crudeli: una iniezione intratecale di siero equino che aveva lo scopo di produrre una sorta di meningite. Allora, perché tutto questo? Perché, stiamo parlando della schizofrenia, ma questo valeva non soltanto per la schizofrenia, che era allora e resta ancora oggi un po' il prototipo del disturbo mentale, ma valeva in generale per tutti i disturbi mentali gravi. Per chi ha un minimo di interesse per l'origine delle parole, mi piace ricordare che il termine delirare letteralmente significa uscire dal solco, cioè abbandonare quella che è la consuetudine, la norma, l'abitudine. E il termine pazzo molto probabilmente è una corruzione, un'alterazione peggiorativa del termine patiens, cioè paziente, come se i malati di mente fossero dei malati ancora peggio, ancora più disprezzabili, ancora più attaccabili di tutti gli altri malati di malattie differenti. Del Corno, ovviamente, scusi, però a prego. Proposito appunto delle donne rinchiuse in manicomio durante il fascismo, insomma, si sono sentite di dare delle pazze, soprattutto quelle donne che in qualche modo si allontanavano dal ruolo che alle donne veniva dato, cioè di essere una buona e brava madre. Certamente. Allora, è chiaro che in un regime di dittatura l'etichetta di follia viene, ovviamente in modo arbitrario, attribuita a tutti coloro che deviano da quelli che sono gli imperativi categorici di quel regime dittatoriale. Naturalmente, durante il fascismo, tutte le donne che si facevano espressione di un desiderio di maggiore autonomia, di maggiore libertà, eccetera, venivano con estrema facilità etichettate come pazze. Però mi permetto di dire che anche in epoca molto più avanzata, cioè intorno agli anni 70-80, quando io ho cominciato a lavorare come psicologo in un ospedale psichiatrico, accadeva anche allora che la donna che tradiva il marito, oppure semplicemente che voleva, allora non c'era il divorzio, ma voleva separarsi dal marito, venisse mandata dallo psichiatra, il quale la giudicava una malata di mente che doveva essere curata con i farmaci o in altro modo per ricondurla all'interno di una consuetudine più accettabile dalla società. D'altronde dobbiamo ricordare che in Italia, per tutti gli anni 60, se la donna tradiva il marito andava in carcere, invece l'adultero veniva insomma sgridato. Però Del Corno, mi pare che lei dica che certo c'è un aggravante del periodo fascista, però in generale questi sistemi estremamente aggressivi, al di là del fatto della componente femminile, erano largamente diffusi nel mondo. Assolutamente sì, cioè la malattia mentale grave, prima citavo l'esempio della schizofrenia come malattia mentale prototipica, ma la malattia mentale grave è sempre stata qualche cosa di così bizzarro, spaventoso e disturbante da indurre in coloro che rivenivano a contatto il tentativo di mantenerla sotto controllo, ridurla, potenzialmente guarirla, usando qualunque mezzo avevano a disposizione. E molto spesso si trattava di mezzi violenti. Cioè, non dimentichiamoci che un diverso modo di concepire i manicomi per l'Italia risale al 1978 con la legge Basaglia. Federico, torneremo a occuparci quindi di questo tema. Nel salutare Del Corno, certo, senz'altro ne riparleremo. Posso estrarre dalla tabella di cui si diceva forse la definizione più paradossale, che è rossa in viso e quindi manicomio. Grazie Del Corno, certo. Buon lavoro e ricerca. Buonasera. Grazie, buonasera. Consegnati a Roma i premi Balzan un mese fa. Premio Balzan è un premio molto importante e tra l'altro piuttosto consistente sul piano, insomma, dei soldi che i vincitori ricevono. C'è una caratteristica però di questo premio che va un po' alle attività culturali, di ricerca culturale in genere, c'è una caratteristica, cioè chi lo riceve deve impegnare metà della cifra ricevuta nel sovvenzionare, promuovere la ricerca di giovani ricercatori e ricercatrici. Federico Capasso, grande scienziato fisico italiano, non è uno dei cervelli migrati all'estero, perché insomma è andato negli Stati Uniti più di 30 anni fa, ha vinto il premio per le sue ricerche sulla cosiddetto laser a cascata quantica. Lasciamo perdere una descrizione di questa ricerca, perché noi l'abbiamo intervistato su un altro aspetto, cioè a un certo momento lui nella sua prolusione ha detto la creatività si può imparare. Lui l'ha scoperto lavorando ai laboratori Bell e noi gli abbiamo chiesto, tu Federico gli hai chiesto, se si può imparare allora c'è un modo anche per poterla insegnare. Cioè, purtroppo molte volte come la scienza viene insegnata, ma anche le discipline, è una maniera artificiale. Per tutto bisogna accettare il fatto che la divisione in discipline diverse, chimica, fisica, è un fatto in gran parte storico e di convenienza. Io ho detto sempre una cosa, io dico agli studenti, la natura non sa dove si ferma la chimica o la fisica, non lo sa, però le cose avvengono, quindi questo, se uno comincia a rendersi conto di questo, è molto illuminante, quindi sono importanti. Però nel lavoro di ricerca, io dico sempre agli studenti, non pensiamo in senso disciplinare, poniamoci un problema interessante. Io questo l'ho imparato un po' ai laboratori Bell, ho detto, qual è il problema che mi interessa? Poi se ho bisogno di conoscenze al di fuori di quelle mie, le vado a cercare. Ci sono lì, vado a parlare con dei colleghi. La Bell era fantastico con questo, perché uno, c'erano al massimo del fulgore, c'erano forse un totale di 1000 scienziati in campi diversi, eccetera. La creatività si può scomporre in tanti atti creativi. E poi La creatività odia le gerarchie. Io sono il professore, sono l'esperto. Tra l'altro perché i contributi molte volte originali vengono non dagli esperti. E in questo senso dico che si può imparare, l'ho sperimentato anch'io, un passo alla volta, no? Ma questo allora vuol dire che ci sono delle persone che comunque per varie storie, addirittura che magari nascono nell'infanzia, nell'ambiente familiare, hanno un certo piglio creativo e partono in quarta, ma quello che lei dice, mi sembra di capire, è che invece molte altre persone potrebbero esserlo, ma se l'approccio anche dal punto di vista didattico è quello che lei ha criticato, non vengono fuori, quindi perdiamo creatività. Sì, che perdiamo, ci sono perdite secondo me enormi, cioè la maniera tradizionale di insegnare top down del professore che parla agli studenti uccide la creatività. E quello che è sbagliato anche è di vedere troppo l'insegnamento come superare lì un esame. La cosa principale è imparare, e non si impara se uno è in uno stato di assorbimento continuo, di prendere note, ma che impara? Adesso entrando dentro però nel quello che produce la creatività, no? Nella scienza ci sono dei casi anche frequenti, lei poi è nel campo della meccanica quantistica che è un po' il regno per queste cose, dove la creatività è quasi un gesto poetico, è stato... La creatività nota, è chiaro, se parliamo poi a livelli di Heisenberg che introduce il principio di indeterminazione o che... una famosa notte dell'Heligoland, quando noi in quell'isola che aveva il raffreddore fortissimo, febbre da fieno, capì, ebbe l'idea centrale di come formulare la meccanica quantistica, quelli sono atti di genio. Questo rimane, la verità di questo. Io voglio dire una cosa meno ovvia, che c'è anche una creatività che non si riconosce abbastanza, ed è quella che ho sperimentato io e tanti altri, è quella... di tanti piccoli passi che si può imparare. Poi io ho visto studenti che nel mio gruppo erano cominciati, direi non gli avrei dato molto, che poi adesso direi sono diventati scienziati creativi. Per questa sera abbiamo finito. Noi, Simona, cosa facciamo? Ci vediamo qui sabato prossimo. Assolutamente, vi aspettiamo tutti e tutte. Buona settimana.